Buongiorno compagni e compagne, stiamo di fronte al carcere dell'Altiplano, al carcere di massima sicurezza nell'estrema periferia della città del Messico, dove sono detenuti i tre compagni dirigenti del Fronte dei Popoli in difesa della terra di Addenco. Ieri pomeriggio la Suprema Corte ha dichiarato che sul caso di Addenco che vengano liberati i compagni, tutti e 12 compagni ancora detenuti per i fatti del 3-4 maggio del 2006 per illegalità delle prove. E questa è stata una grande vittoria del movimento, veramente c'è tanta emozione in giro, c'è stata tanta emozione in piazza, perché questo ha significato che 4 anni di lotte hanno portato a questo risultato sorprendente. Nessuno aveva fiducia assolutamente nella Suprema Corte, però la forza delle mobilitazioni che ci sono state in tutto il mondo, in 20 paesi in questi giorni, la forza soprattutto delle mobilitazioni dei movimenti sociali che animano il Messico dal basso, ha reso possibile questo sogno. Le sentenze a Ignazio e alla recente del Valle, dirigente a 112 anni, agli altri dirigenti 67, agli altri 9 detenuti 31 anni. Però queste sentenze, queste condanne non sono state portate a termine perché la forza dei movimenti li ha liberati. Insomma, sotto questa pressione la Suprema Corte ha ordinato che vengano liberati, e quindi noi diciamo ci siamo mossi dalla piazza centrale di Città del Messico a due carceri in periferia, Molino de las Flores e l'Altiplano. Molino de las Flores, durante la notte sono stati liberati 9 compagni che hanno già raggiunto il villaggio di Addenco, i loro familiari, mentre qui nell'Altiplano, dove stiamo in questo momento, sta piovendo, ci sono 300 persone, sono 14 ore che aspettiamo che li liberano, è un'attesa estenuante e anche carica di una certa rabbia, perché li vogliamo subito fuori questi compagni che ci hanno sequestrato per 4 anni ingiustamente, come ha dovuto riconoscere la stessa Suprema Corte di Giustizia. Siamo qui in attesa, non li consideriamo liberi fino a che non li vediamo fra di noi, finché non li possiamo abbracciare. Però insomma, questa è la notizia: Addenco non ha mai smesso di lottare, e il risultato di questa straordinaria lotta è che, nonostante le pesanti condanne contro di loro, è stato possibile tirar fuori almeno al momento 9 dei 12 compagni. Ripeto, stiamo in attesa, faremo anche un altro collegamento al momento che possiamo riabbracciare Ignazio del Valle, Felipe Alvarez e Hector Galindo, che sono tre dei maggiori esponenti del Fronte dei Popoli in difesa della terra. Questo villaggio che è riuscito a respingere un aeroporto nel 2002 e che nel 2006 ha resistito alla vendetta di Stato quando vennero arrestate 200 persone, violentate più di 30 donne e ammassati 2 giovani compagni. Ci siamo quindi da Addenco, dalla periferia di Città del Messico, al momento è tutto, aspettiamo gli ultimi 3 compagni che escono dal carcere, l'attesa è lunga, ma insomma, sfidare il destino e il maltempo fa mai parte della nostra pratica. Un saluto e un abbraccio a tutti e a tutte. Ciao.